我喜欢旅游，喜欢拿着单反到处拍照，拍美丽的风景，拍家人的笑脸。我会变魔术，女儿说我总能变出一个个袋子，把她旅游时吃的零食果皮统统装下。我还是个篮球运动员，总能把用完的矿泉水瓶准确地投入垃圾箱。你问我是谁？我只是个普通的游客。 每一位游客都是文明的使者，文明出游从你我做起。 用年轻的心演绎古典，古典中的流行 Pops 音乐。 Alas, my love, 北京音乐广播古典音乐有限频道，调频98.6兆赫，每天3点15点播出。 And I have loved you、oh, so long, my love, my lady greens leaves。 欢迎收听 Pops 音乐，我是古月。今天首先为您带来的是1999年帕瓦罗蒂和朋友们举行的为危地马拉和科索沃的儿童义演，曲目有《英雄》《妈妈》《不管怎样》《爱的魔力》《圣母玛利亚》等。 This is for you. I love you. Thank you. There's a hero. If you look inside your heart, you don't have to be afraid of what you are. There's an answer.If you reach into your soul, and the sorrow that you know will melt away, and then a hero comes along with the strength to carry on, and you cast your fears aside, 'cause you know you can survive.So when you feel like hope is gone, look inside you and be strong, and you finally see the truth that a hero lies in you. Quante volte ma, anche se tu non lo vuoi.La sconfitta sembra sia un deserto di rinunce grande ostilità e vuoi dimenticare la realtà.Sembra che nessuno al mondo creda in te, non perderti perché la luce tua si accenderà e vedrai che il buio in quel momento svanirà. And in time, you'll find guarirò. That a hero lies in you. La luce dentro te. That a hero lies in you. Italia. Mamma soltanto felice perché ritorno da te. La mia canzone ti dice che è il più bel giorno per me. Mamma soltanto felice viver lontano perché.Solo per te la mia canzone vola. Mamma, sarai con me, tu non sarai più sola. Quando ti voglio bene, queste parole d'amore che mi sospirano al cuore, forse non s'usano più. La canzone mia più bella sei tu. Sei tu la vita e per la vita non ti lascio mai più. Sento la mano tua stanca, cercami riccioli d'or. Sento e la voce ti manca, la rinnarannarandor. Oggi la testa tua bianca io voglio stringere al cuore. Solo per te la mia canzone vola. Mamma, sarai con me, tu non sarai più sola. Quando ti voglio bene, queste parole d'amore Vita non ti lascio mai più. Mamma, mai più. Grazie. Un applauso grande, eh? Tutti la terra natale di tutti i nostri bambini.De mi tierra bella, de mi tierra santa, oigo ese grito de los tambores y los timbales al cumbancha.Recuerdo la hace llorar, una canción que vive entonando de su dolor, de su propio llanto, y se le escucha penar. La tierra te duele, la tierra te da en medio del alma cuando tú no estás. La tierra te empuja de raíz y cal, la tierra suspira si no te. Yes, sir. melancolía. Cada noche junto a la luna sigue el guajiro entonando el son. Cada calle que va mi pueblo tiene un quejido, tiene un lamento, tiene nostalgia como su voz. Esa canción que sigue entonando, corre la sangre y sigue llegando con más fuerza al corazón. You're falling out. sé. C'è una parola sola che ti illuminerà, l'amore di una donna, la via ti mostrerà. Don't let nobody play me cheap, I got that. comes a certain move that I'm gonna achieve. So let the good times roll. Let the good times roll. I don't care if you're young or old. Get together and let the good times roll. Let the good times roll. Let the good times roll. Let the good times roll. Let the good times roll. I don't care if you're young or old. Get it, get on, let the good times roll. Let the good times roll. Let the good times roll. Is filled with thunder and the winds are storming above. Deep within the night we wonder if we've lost the magic of love. But there's something inside us that looks to the sun. We dream that this light will guide us with love. For everyone. When the birds of war are flying and the clouds are heavy with rain, seems a thought the sky are crying. And we feel the cold tears of friends. Ah, there's something inside us that goes to the sun. Oh! feels and receives. Is filled with thunder and the skies are peaceful above. Bring the beautiful once again. We know the wonder of the magic power of love. Maria, da stondo mezza via, seruto pa vedere. Non trovo l'ore pace, ma notte faccia giorno, sempre che sta attorno, sperandoci a parlare. Oi Marie, quante suon che perdo per te, fammi dormire, nata volta abbracciata con te. Oi Marie, quante suon. Marie, con la manella, non sei a me fa. Sono la chitarra mia, Maria, sei scettata, una bella serenata, facimmola sentire. Oi mari, quanta suon che perdo per te, fammi dormire, abbracciate un poco tutte. Oi mari, quanta suon che perdo. Oi Mari, oi Mari, cari. Quanto suona che perdo per te. Fa dormire oi mari, oi mari. Grazie. Wish you were. I'm thinking of you in my sleepless solitude tonight. If it's wrong to love you, then my heart just won't let me be right. Cause I'm drowned in you and I won't pull through without you by my side. I give my sei cose nella mente, ma tu non ci sei. Mi dispiace. Guardo dentro gli occhi della gente, cosa cerco non so, forse un uomo. Cammini come me all'altra parte della strada. Ehi me, che sei solo come me all'altra parte della strada. Sing a song, passes by, singing harmony and better. What do you say, my friend, some summer night, keep me company, hang together. Far side of the road. Hey man, come and sing my song with me on my side of the road. Che ci facciamo? Fiore in fiore, bello l'amore, bello vicino a te. fa sognare, mi fa tremare, chissà perché. Fiori margherita, cosa mai la vita, se non c'è l'amore che il nostro cuore fa palpitare. Fior di verbena che qualche pena l'amore ci dà, fa come il vento che in un momento poi passa e va. Ma quando tu sei con me, non felice perché, fiori fiorello l'amore bello vicino a te. Oggi tutto il cielo è in festa, tu ridete e brilla il sole. Non so perché vedo intorno a me tutte rose viole. Il mio cuore innamorato non lo posso più frenare. Io non so cos'è, c'è qualcosa in me che mi fa tremare. Fiori, fiorello, l'amore bello vicino a te. Mi fa sognare, mi fa tremare, chissà perché. Fiori, margherita, se mai la vita, se non c'è l'amore che il nostro cuore fa palpitare. Fior di verbena, se qualche pena l'amore ci dà, ma come il vento che in un momento poi passa e va. Quando tu sei con me, felice perché, sei fiorello d'amore bello vicino a te. Go! Guardato al cielo, ma il mio destino è cieco e non lo sa, e non c'è pietà per chi non prega e si convincerà che non è solo una macchia scura il cielo. Quante volte avrei preso il volo, ma le ali le ha bruciate già la mia vanità e la presenza di chi è andato già, rubandomi la libertà, il cielo. Conquistano il cielo, perle d'oro nell'immensità. Qualcuna cadrà, qualcuna invece il tempo vincerà, finché avrà abbastanza stelle il cielo. Sotto questo cielo un altro figlio nasce e non lo puoi. Gli spermatozoi, l'unica forza, tutto ciò che hai. Ma dimmi, ma che uomo sei se non hai il cielo? Il cielo. Dignity. somehow you needed me. You gave me strength to stand alone again, to face the world out on my own again. You put me high upon a pedestal, so high that I could almost see eternity. You needed me, you needed me. I can't believe it's you, I can't believe it's true. I needed you, and you were there. I finally found someone who really cared. You needed me. You held my hand when it was cold, when it was lost. You took me home. You gave me hope when I was angry. Turn my life back into truth again. You even call me friend. You gave me strength to stand alone again, to face the world out on my own again. Thank you very much. Thank you. 接下来和你一起分享一组施特劳斯家族的音乐，曲目有《维也纳森林的故事》《皇帝圆舞曲》《蓝色多瑙河》《春之声》《拉德斯基进行曲》，每首曲子分别有两个版本，分别是童声合唱版和管弦乐版。合唱版由许德昌指挥北京金帆少年合唱团演唱，管弦乐版由卡尔·弗莱明指挥奥地利维也纳交响乐团演唱。 Thank you.

Thank you.